Salva Danaio di Deborah Rosciani. Nuovo appuntamento con Salva Danaio, che sì, appunto un programma curato e condotto di solito, di norma, dalla collega Deborah Rosciani, che oggi purtroppo però aveva un impegno improrogabile, e quindi sono qui io, Valeria De Rosa, a sostituirla. Cercherò di farlo degnamente. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di comprare casa, ma come? Cercandola sul web, quindi in rete, e cercando di evitare tutti i possibili rischi connessi alla rete, che è sì un utilissimo strumento, ma va sempre maneggiato con una certa cura e con un'approfondita conoscenza. Lo faremo come sempre con degli ospiti collegati telefonicamente con noi. Saluto, perché è già collegato, il dottor Carlo Giordano, amministratore delegato di gruppoimmobiliare.it. Buongiorno. Buongiorno Valeria, buongiorno agli spettatori. E noi stiamo cercando di collegarci anche qui ovviamente telefonicamente con il dottor Antonio Apruzzese, direttore del servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Appena lo avremo collegato con noi lo saluteremo e lo inviteremo a parlare subito. Prima però di addentrarci nel nostro tema, come sempre ancora un riepilogo di quanto sta accadendo sui mercati. Oggi è una giornata piuttosto debole, per il momento ancora priva di spunti, nonostante due dati piuttosto importanti, soprattutto quello arrivato dalla Germania, l'indice ZEV, che misura la fiducia per quanto riguarda le aspettative più che altro degli analisti e degli investitori, salito a 4,3 contro l'1,8 di novembre, ancora una volta al di sopra delle stime che puntavano a un risultato pari a 4. E poi è arrivato il dato relativo alla produzione industriale in Europa, più 0,7% per quanto riguarda il vecchio continente. Arranca ancora un po' l'Italia, meno 0,1% per quanto riguarda il nostro paese. Nonostante però questi due dati sostanzialmente buoni, positivi, l'Europa ancora è piuttosto debole e per molti listini c'è il segno meno davanti. Parigi cede uno 0,16%, Francoforte lo 0,14%, Londra guadagna uno 0,02%, quindi si mantiene sulla parità. Resta più pesante Milano, dove si fa sentire soprattutto la debolezza del comparto bancario. FTSE MIB e FTSE All Share cedono intorno allo 0,4%. E allora andiamo a vedere subito che cosa sta succedendo sul listino principale. Il peggior titolo è Ansaldo, che cede 2 punti, Banco Popolare meno 1,14%, Parmalat meno 1,11%, Unicredit meno 1,10%, Mediobanca cede 1 punto percentuale, Unipol lo 0,94%, Pirelli lo 0,89%, Fondiari Assai lo 0,88%, Intesa San Paolo cede 1,08% e così via. Dobbiamo dire che sono veramente pochi i titoli che stanno guadagnando. Il migliore in questo istante è CIR, guadagna lo 0,58%, scivola leggermente Telecom Italia, che guadagna uno 0,36%, Exor guadagna lo 0,43%, Italcementi lo 0,23%, Eni lo 0,18%, e qui si esauriscono i titoli con il segno più. Velocissimamente sul listino completo, perché dopo un avvio di mattinata piuttosto difficile, dopo aver smentito l'aumento di capitale, Edison invece guadagna di nuovo, ricomincia a guadagnare terreno, in questo istante è in progresso di un mezzo punto percentuale circa. Per quel che riguarda i cambi, in questo momento l'euro su dollaro 1,34,66. Qui esauriamo la nostra parentesi dedicata ai mercati e andiamo al nostro tema, e quindi appunto comprare casa aiutandoci con la rete, quindi cercare l'immobile online, la nostra scheda. Internet per visualizzare gli annunci immobiliari e per comprare o vendere casa? Ebbene sì, e la tendenza è in forte aumento anche in Italia. Secondo le statistiche, più case si visualizzano su internet, più è alta la probabilità di successo. Trovare la casa dei propri sogni senza muoversi da casa non è impossibile, anche se naturalmente ci si deve limitare alla ricerca e non all'acquisto. Tuttavia, è bene prestare molta attenzione ad alcune regole da seguire per evitare di incappare in spiacevoli sorprese. Prima tra tutte, quella di avvalersi di un portale qualificato e riconosciuto. Tra gli altri accorgimenti da seguire, è importante informarsi su chi sia l'eventuale venditore e, una volta individuata la casa che ci interessa, prima di fare una qualunque proposta formale, è opportuno controllare con attenzione tutta la documentazione necessaria, dalla planimetria alla certificazione catastale. Le 12:26, stiamo ancora cercando, eccolo, ci siamo collegati telefonicamente con il dottor Antonio Abruzzese, direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che saluto, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, perché parliamo di questo proprio oggi? Perché proprio oggi viene lanciata questa iniziativa importante, molto importante, perché si cerca di proteggere appunto da eventuali rischi tutti coloro che cercano di orientarsi sull'acquisto dell'appartamento, di qualsiasi altro immobile, sul web, trovare l'offerta più sicura. E quindi immobiliare.it, che è un sito leader nel settore, e la Polizia Postale delle Comunicazioni hanno varato questa campagna che si chiama viadellasicurezza.it, che ha anche un sito molto chiaro, molto semplice da consultare. E in poche parole mi farei raccontare dal dottor Carlo Giordano in che cosa consiste questa iniziativa. L'iniziativa si prende lo scopo di aiutare le persone in un momento delicato come la loro ricerca e poi l'acquisto della casa, e nasce da un fenomeno che è successo negli ultimi anni. Da strumento utilizzato da poche persone, nicchia, è diventato uno strumento utilizzato da quasi 4 milioni di utenti ogni mese, e quindi esponendo molte più persone alle insidie che potrebbero generare in questo percorso della ricerca casa. Dottor Abruzzese, anche da lei qualche battuta velocissimamente su questa iniziativa che tra l'altro avete presentato poco fa. Sì, esattamente. Vede, tutto parte dalla constatazione che oramai anche settori una volta assolutamente fuori dal mondo di internet, quale quello del, diciamo in generale, del mercato dell'abitazione, il bene più prezioso per i cittadini, quello a cui i cittadini sono più legati, siccome sta entrando anche questo mercato, come stiamo vedendo tutti, attraverso i canali di internet, e siccome i canali di internet possono presentare tutti i rischi che ben conosciamo, ecco perché la polizia tende a mostrarsi, ad apparire nella maniera più chiara di aiuto al cittadino anche in questa fase. E allora abbiamo parlato di questo sito viadellasicurezza.it. Io vorrei chiedere al dottor Giordano, visto che ci sono delle regole in questo sito da consultare, però lasciamo anche un po' di curiosità a chi andrà a cercarsele, qual è secondo lei quella più importante che deve osservare sempre chi vuole cercare un immobile attraverso internet? Sicuramente è l'ultima che noi citiamo, perché è quella più vicina al momento dell'acquisto, che è quella dove si materializza il denaro. E una cosa che noi raccomandiamo, proprio per la tipologia che è l'immobile, è mai mandare anticipi, caparre, cauzioni di denaro senza aver fisicamente controllato, visto l'immobile. E purtroppo la truffa che abbiamo visto in questo momento, poi sono tipicamente ondate di truffe, no? In questo momento è che viene pubblicato un'offerta tipicamente in affitto a un prezzo molto conveniente. Di fronte all'entusiasmo dell'opportunità di un affare, di fronte a questo momento in cui uno dice voglio essere primo a raccogliere quell'opportunità, il proponente fa una richiesta di denaro per bloccare l'immobile, richiesta di denaro che poi uno corre il rischio di non vedere più indietro nel momento che scompare il proponente. Certo. Dottor Abruzzese, secondo anche la sua esperienza, qual è il rischio maggiore a cui va incontro in questo caso chi cerca l'immobile online, oltre a quello di cui ci parlava il dottor Giordano, e quindi magari versare una caparra e poi ecco perderla completamente di vista? Ma guardi, premesso che sono rischi tra virgolette calcolati, perché sono settori oramai di mercato, di attività commerciale, che ineluttabilmente stanno passando verso i canali di internet, e quindi dobbiamo comunque adattarci alla, sì, pericolosità di queste nuove strade che abbiamo scelto di percorrere, Ci sono due tipi ovviamente di rischi. C'è un rischio connesso all'affare che stiamo per concludere, cui faceva con grande attenzione riferimento il dottor Giordano, cioè al momento delicato dell'inizio del pagamento, cioè il momento in cui comincio a versare il denaro, è il momento in cui sono più esposto per quello che riguarda la conclusione di quell'affare. Poi c'è un pericolo più vasto, più latente, più a monte, che trattandosi di traffici commerciali in internet possono nascondere trappole per quello che riguarda la nostra cosiddetta identità digitale, cioè i nostri dati di riferimento personali che possono essere sottratti e quindi creare e originare tutta una serie di danni successivi. E uno come fa, diciamo così, posto che questa serie di rischi uno sa che esistono e quindi si approccia alla rete, in qualche modo è consapevole, come può in qualche modo tutelarsi di fronte a questo dell'identità, diciamo, violata o rubata, che è un rischio grosso e che genera tra l'altro tutta una serie di danni molto ingenti in alcuni casi? E anche qui c'è una duplice serie di cautele, di attenzioni da osservare proprio rigorosamente. Una che riguarda l'attenzione nella individuazione del giusto sito con cui si va a colloquiare, perché molto spesso si viene a contatto con un sito che non è quello che realmente vorremmo contattare e che finisce col diventare colui che capta tutti i nostri dati sensibili. Poi ci sono aggressioni più subdole connesse a forme di crimine tecnologicamente molto più avanzato, cioè ingannate sono le macchine e il nostro computer che è ingannato e che ci porta a casa d'altri con i nostri preziosi dati personali. A questo come si sopperisce? Con la massima attenzione nella gestione dello strumento informatico. Per questo la polizia, l'invito che fa sempre più pressante, più continuo, è quello di fare attenzione alle problematiche di sicurezza. Dobbiamo alzare tutti la soglia di attenzione perché prevenire può eliminare la gran parte dei problemi che poi in realtà si vengono ad originare. Allora, dottor Giordano, il dottor Abruzzese faceva riferimento nella prima parte della sua risposta alla serietà, diciamo così, alla validità del sito con il quale si viene in contatto. Come si fa a capire se quel sito al quale mi rivolgo, comunque sul quale vado a navigare per avere un'idea dell'immobile che voglio, è un sito sicuro, affidabile, di cui mi posso appunto tra virgolette fidare? Sono diversi strumenti, ovviamente la notorietà del sito sottende a una garanzia di una sua presenza. Però riprendendo anche un altro commento del dottor Abruzzese, quello che Via della Sicurezza, questa iniziativa che nasce da immobiliare.it in concerto con la Polizia delle Comunicazioni, è portare all'interno dei portali l'equivalente del poliziotto di strada, quindi una persona che è presente nel portale, presente nel territorio, che aiuta come educazione, come preparazione le persone che utilizzano quel sito e parimenti dissuade i malintenzionati dall'ingresso in questa piattaforma. Allora, io ripeto i numeri per intervenire: 800 24 00 24 per intervenire in diretta telefonicamente, 349-238-6666 per i vostri sms. Prima proprio lei, dottor Giordano, diceva che il web è utile sicuramente per districarsi un po', per capire, ma poi sempre bene vedere con gli occhi, toccare con mano. Un ascoltatore ci scrive che ha comprato casa in America su eBay, quindi immagino forse senza averla proprio vista precedentemente. Che cosa possiamo dire a commento di un'esperienza che sicuramente noi speriamo si sia completata positivamente? Sì, credo che sia un caso unico, quindi il percorso di internet, lo strumento internet utile per la ricerca casa è sulla ricerca e fisicamente la casa si compra, quindi io una volta identificato l'immobile che è nel mio interesse utilizzando i portali internet che permettono strumenti di confronto veramente forti e potenti, la visita d'appartamento rimane strutturale, quindi è quasi atipico che uno arrivi a fare questo tipo di acquisto online. Il mondo internet serve per la ricerca, non per comprare. Ovviamente limitatamente all'immobile, perché poi ci sono tante altre categorie, certo, merceologiche, certo, che invece, certo, online trovano proprio il loro luogo migliore per l'acquisto e la vendita. Per quanto riguarda, diciamo così, il sito, anche chi amministra il sito svolge una funzione di controllo da parte anche di chi vuole acquistare, perché magari anche lì si può nascondere, si può annidare qualche problema, qualche problematica. Noi lo consideriamo un impegno, nel senso che quando abbiamo iniziato il percorso di costruire immobiliare.it come sito di raccolta di offerte immobiliari, da sempre abbiamo vissuto il senso di responsabilità di aiutare le persone nella loro ricerca a casa, quindi qualunque segnalazione, qualunque dubbio venisse alzato, veniva da noi affrontato, verificato. E da lì è nata per iniziativa con la Polizia delle Comunicazioni di scambio del contatto della segnalazione. Ecco, dottora Prozzese, mi spiega un po' meglio com'è nata questa cosa, perché noi abbiamo sentito prima addirittura ci sono 4 milioni, se ho capito bene, di contatti di ogni mese per la ricerca dell'immobile. Vi è scattato qualche campanello d'allarme perché vi siete resi conto che forse in alcuni casi non così sporadici qualcosa non andava, o vista la mole, quindi visto il numero, allora avete fatto un'opera di prevenzione prima o poi di trovarvi di fronte a dei problemi? La sua seconda ipotesi è sicuramente quella più azzeccata. L'idea è quella di incrementare la presenza della polizia nei luoghi in cui ci sono più concentrazioni più grandi, sì, di persone, sì, e quindi di potenziali rischi per quelle persone. È come su una grossa strada urbana o extraurbana il traffico aumentasse enormemente e automaticamente si dovrebbero vedere più macchine della polizia per cercare la sola presenza ha una grandissima efficacia dissuasiva, e quindi anche la presenza del portale, del nostro link, del collegamento ai nostri, sì, portali istituzionali è una presenza e consente è una maggior vicinanza per il cittadino che vuole fare un acquisto online. Volevo chiedere ancora al dottor Giordano, quindi diciamo che comunque sia bisogna vedere con i propri occhi, cioè questo è un aiuto, però comunque sia siamo ancora nell'ambito in cui non è possibile fidarsi completamente. Nella nostra valutazione l'acquisto, la scelta della casa nuova lo richiede, e sicuramente l'acquisto, l'impegno economico più importante della nostra vita. E uno dei motivi per cui è partita la campagna Vedere la Sicurezza è che si è resi conto che tipicamente le persone sono più preparate nell'acquisto quotidiano di pochi euro. Probabilmente io so qual è la promozione su un vestito quando arrivano i saldi, oppure l'offerta migliore al supermercato. Un acquisto importante come quello della casa, siccome avviene raramente, 4 volte nella nostra vita, ci trovo di media perché poi alcuni magari la comprano una volta e non la comprano più, diciamo. Dopo l'esperienza, no, mi parte. E quindi dico, assolutamente arriviamo a un momento così delicato, così importante, poco preparati. Poi siccome c'è un coinvolgimento emotivo molto forte nell'acquisto della casa, sì, e dove divento anche meno razionale, a un certo punto io mi innamoro dell'immobile. E quindi non faccio più caso alla documentazione, alla certificazione e via, esatto, dicendo? Un altro esempio che portiamo sempre è, tipicamente gli immobili si dicono 90 metri quadri, 80 metri quadri, sempre, sì, con un numero arrotondato. Però attenzione, Milano e Roma, euro metro quadro sono 5-6 mila euro. Sì. 2 metri quadri di differenza vale più di un'autoritaria, quindi credo che nessuno di noi si farebbe sottrarre una macchina di sua proprietà. Però queste sono piccole sfumature che nel percorso dell'acquisto poi ci torniamo a ragionare dopo, ma dopo tipicamente non è il momento migliore. Allora, questo forse ancora per la nostra poca esperienza o per il nostro poco utilizzo, poco tra virgolette, rispetto alla rete, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante. Prima però devo salutare il dottor Prozzese perché ha altri impegni, e quindi lo saluto e lo ringrazio, direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, per essere stato con noi. Allora, io sono un agente immobiliare e come tale dico che secondo me il modo migliore per poter fare un acquisto di una casa è quello di rivolgersi chiaramente ad un'agenzia immobiliare anche online, anzi soprattutto online, dato che in questi portali di cui avete fatto nomi ci sono pubblicate le agenzie immobiliari che pubblicizzano i loro immobili e poi nessuna agenzia andrebbe mai a chiedere un anticipo, insomma, almeno non è la mia prassi quella di certo. Andare a chiedere un anticipo. Comunque, ovviamente anche lei ci dice una certa serietà anche online, ma questo è quello che abbiamo cercato di dire e di spiegare nel corso di tutta la trasmissione. Signor Nicola, dalla provincia di Bologna, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Sulla mia esperienza, io ho acquistato due piccoli appartamenti, case vacanze, uno in montagna, uno al mare, e l'ho fatto tramite, diciamo, internet, cioè nel senso che uno l'ho trovato su immobiliare.it e poi chiaramente pubblicizzato da un'agenzia immobiliare, poi chiaramente sono andato su quando ho individuato quello che mi interessava, e l'altro a Cervia e anche qua su subito.it, questo tramite privato, ecco. Diciamo che il canale internet secondo me è fondamentale per quel che riguarda la vetrina, insomma, poi chiaramente uno deve recarsi sul luogo, sul posto. Esatto, io non sarei riuscito assolutamente a trovare qualcosa perché col lavoro che faccio eccetera, invece così sono riuscito a... E comunque si è spostato, quindi ha intrapreso anche dei piccoli viaggi, però l'ha fatto nel momento in cui aveva una certa sicurezza, insomma, alle spalle. Quindi, diciamo, però la vetrina è fondamentale. È fondamentale, secondo quindi secondo me sì, un grande canale. Lei dà piena ragione al dottor Giordano, con cui vorrei fare un'ultima battuta sul sito, perché questo sito viadellasicurezza.it ha anche all'interno dei test che possono essere utili in generale per tutti, per chiunque si avvicina al comprare un appartamento, perché ci sono delle domande piuttosto semplici ma che magari si danno per scontate le risposte, invece ci potremmo trovare di fronte a risposte sbagliate da parte nostra. Bravissima Valerio, sai, lo spirito che c'è dietro il sito Via della Sicurezza è, utilizzando un tono simpatico, semplice, però portare all'attenzione alcune verifiche che uno deve fare, che poi, come ha detto lei, è buon senso, non c'è nulla di sofisticato dove richieda una preparazione specifica, che però se uno le formalizza razionalmente le risolverà nel modo corretto, se le trascura o se ci va oltre ne rimarrebbe il dubbio. La battuta finale che noi facciamo sempre è: se è troppo bello non è vero, no? Se io sono di fronte a una cosa che il prezzo è unico, proprio me l'hanno proposto. Insomma, devo farmi delle domande. Bravissimo. Nessuno ci regala niente, siamo sempre allo stesso punto. Grazie a Carlo Giordano, amministratore delegato di Gruppo Immobiliare.it. Io ricordo l'iniziativa congiunta anche con la Polizia Postale delle Comunicazioni, viadellasicurezza.it. Andatelo a vedere, ci sono delle regole semplici da seguire, appunto delle domande altrettanto semplici alle quali però rispondere potrebbe poi aiutarvi per evitare rischi futuri. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio il collega Enrico Bronzo, che saluto, buongiorno anche a te Enrico, benvenuto. Buongiorno a tutti. Perché Enrico è qui? Perché da giovedì parte rinnovato Casa 24 online. C'è un nuovo sito rinnovato nella grafica, molto forte nei contenuti, parteciperanno tutti i colleghi non solo del quotidiano ma anche delle 30 società del gruppo che si occupano di casa. La forza del nostro gruppo è avere professionisti preparati che scrivono per gli operatori e con piacere metteranno a disposizione le loro conoscenze anche per il pubblico dei privati a cui Casa 24 si rivolgerà. Possiamo fare qualche anticipazione su giovedì? Ecco, un'anticipazione prenderà proprio spunto dall'iniziativa di cui hai appena parlato, perché un nostro collaboratore approfondirà le truffe online, ha già parlato con la Polizia Postale, mi parlava di 120 casi, fra cui alcuni malcapitati che hanno accettato degli affitti dando indicazioni dei propri estremi bancari e sono stati truffati. Quindi attenzione per tutti i risparmiatori, per tutti gli investitori. poi il 16 sarà il giorno della presentazione del codice di valutazione degli immobili a Roma, lo seguiremo con Saverio Fossati. Oggi viene presentato il Salone del Mobile, presenteremo delle anticipazioni, daremo conto degli incentivi fiscali che hanno visto oltre 3.000 contribuenti avere un aiuto dallo Stato e tantissimo altro. Grazie Enrico Bronzo. Quindi Casa 24 totalmente rinnovato da giovedì online, e anche oggi noi ci fermiamo qualche istante prima per lasciare spazio alla nostra nuova rubrica. INPS, per saperne di più. Fino alla fine di febbraio vi proponiamo, in collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, delle pillole per chiarire e spiegare le parole della previdenza. Spiegarcele anche oggi il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Negli ultimi tempi, con l'allargamento delle frontiere, può capitare di effettuare periodi di lavoro all'estero e quindi di avere contributi versati in altri paesi europei oltre all'Italia. Nel caso in cui con i soli contributi italiani non si abbia diritto alla pensione, si può ricorrere alla totalizzazione, che consente di sommare i periodi assicurativi maturati negli stati comunitari ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto alla pensione. Per poter effettuare la totalizzazione, la regolamentazione comunitaria richiede l'esistenza di un periodo minimo di assicurazioni pari ad un anno. E allora, non so se l'avete capito, ma la parola di oggi era contributi versati all'estero, pillola che tornerà anche domani ovviamente. Il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato, e allora io ringrazio in redazione Gaia Romani, in regia Fabio Cantadori. L'appuntamento con Salva Danaio è rinnovato per domani con Deborah Rosciani. Arrivederci.